E prima li avevamo citati, Noise Delic, ce li siamo andati appunto anche ad ascoltare con una loro versione mai girata a questo punto di In the Name of the Father, il nome del padre. E non so quanto poi di fatto si siano ispirati al film per comporre appunto a livello progettuale questo album pieno di comunque così idee che vanno a cozzare anche con ambienti scuri, con momenti insomma di grande gravità, dove sembra quasi che questi ambienti appunto non possono altro che creare altri ambienti chiusi, oscuri, un dark ambient che comunque si fa anche a volte da incubo jazzistico, con appunto fiati che vanno a non ad aprire ma ulteriormente forse a chiudere. È comunque un immaginario che ovviamente lavora su una sottrazione, e quindi quasi a volere far uscire probabilmente i pixel, se vogliamo utilizzarli in chiave digitale, ma oppure in chiave analogica, quelle che erano insomma i disturbi di frequenza, chiaramente insomma televisiva soprattutto, ma anche quelle immagini che molto utilizzate dall'industrial culture per video disturbanti, quindi quei disturbi analogici che poi insomma hanno portato di fatto dal pixel, anche a volte utilizzato nella prima computer grafica, anche da certe insomma sperimentazioni industrial. Noise Daily, che escono sicuramente da quella grande defragazione, da quel momento storico che sembra mai finire per effetto insomma potremmo dire negativo, come apertura del vaso di Pandora, ma poi in realtà insomma qua c'è tanta creatività che non possiamo che appunto ancora rimandare, ancora sperare un eterno quasi rimando di certe emotività, di certe appunto esplosioni sonore istintive, oppure calibrate verso quasi un infinito appunto sonoro, un infinito che va appunto a togliere più che aggiungere in termini di immaginario. Quindi in questo senso forse più che mai girato, nell'impossibilità di essere girato, proprio come le musiche di Maurizio Bianchi e Saverio Evangelista. Tra l'altro Saverio Evangelista già è membro degli storicissimi Splendor Geometrico, che in questi anni hanno visto anche una grande rivalutazione, questi guastatori ritmici che hanno creato le casse rotte, che poi sono state utilizzate molto in questi ultimi anni momenti quasi mainstream, o se vogliamo un po' più famosi come Fuck Bottom, e forse anche un po' a deturnare oppure a far saltare completamente quel discorso che facevamo prima sulla Babele dei linguaggi. Fuck Bottom per un attimo insomma ci sono riusciti, anche arrivando insomma a un pubblico più vasto, e quindi parlando una lingua più generalista, se vogliamo, pur partendo insomma da quegli esperimenti meravigliosamente terrificanti delle Splendor Geometrico, queste esplosioni e implosioni ritmiche che fanno un tutt'uno con un noise tutto loro, tutto legato a quello che è potenzialmente un tecnologico usato in maniera barbarica quasi. Ecco, con Saverio Evangelista, Maurizio Bianchi, nome tutelare di quella sottrazione industrial che ha creato una forse affiliazione anche qua impossibile da fermare, proprio per germinazione quasi, anche non so quanto voluta da Bianchi, personaggio insomma assai schivo anche musicalmente, ma che di fatto insomma sta portando a un immaginario micro, come d'altronde poi il disco anche che andiamo a trovare appunto insieme a Severo Evangelista, Micro Mal Sonorities, ma anche qua il micro va a trovare una sottrazione, cioè si fa micro perché sottratto da una massa sonora immensa, da un noise esplosivo che viene appunto ridotto da Bianchi già nei lavori dei primi anni 80 fino ad arrivare ai nostri giorni, e con Saverio Evangelista che riesce a ulteriormente quasi a voler plasmare, a ulteriormente compattare quasi il suo sforzo ritmico, la sua tensione ritmica, quasi a voler appunto farla ritornare a un battito così primigenio, primordiale, potremmo dire, anche per un immaginario che si fa sempre più micro, e quindi va a trovare anche così una sorta di film immaginario su cellule e mondi appunto micro, che vengono sonorizzati in maniera veramente stupefacente appunto dal grande Maurizio Bianchi, da Saverio Evangelista, in questo Micro Mal Sonorities che andiamo appunto a prendere da qualche anno fa, disco che ovviamente, come tutte le produzioni di Bianchi, ha un piccolo che poi appunto diventa col passare del tempo sempre più grande culto, e che esprime ulteriormente questa visione appunto implosiva quasi di Maurizio Bianchi, in questo caso appunto con Saverio Evangelista, nome tutelare appunto insieme a Bianchi anche di un certo industrial storico. E abbiamo ascoltato appunto lo splendido Maurizio Bianchi, splendido nel senso insomma di creatore, di immaginari assolutamente originali, anche se poi per molti aspetti anche la sua paternità rispetto a molto industrial ambient ce lo può fare anche un po' così, e scordare invece come assoluto progenitore di questa attitudine rispetto alle masse sonore, al rumorismo più bieco, se vogliamo, più vicino al power electronics, ovviamente con più bieco programmaticamente tale, quindi inteso in termini positivi. È un po' paradossale anche il linguaggio che si può adottare per esprimere insomma le musiche di Bianchi, come d'altronde le musiche stesse di Bianchi diventano paradossali tra rumorismo deflagrante e questi momenti di appunto sottrazione eccezionale di arrivare a un nucleo sonoro che lo fa diventare sì una specie di ambient per ambienti impossibili, forse per non soltanto film mai girati come tra l'altro il suo Armageddon, che conclude questa serata di 451 frammenti sonori, appunto per musiche per film mai girati, Armageddon 1984, momento cardine, momento fondamentale per Maurizio Bianchi, perché arriva a concludere la sua prima fase della sperimentazione che aveva iniziato con Sucker Pelz alla fine degli anni 70 e che aveva fatto anche con collaborazioni estremamente importanti all'epoca per quanto riguarda l'industrial, come quella di William Bennett dei White House, giri legati a Steven Stapleton di Narsuit Hund e faccende che l'avevano fatto insomma diventare ad esempio figura di culto in Giappone, dove addirittura iniziarono da subito, anticipando insomma quello che sarebbe successo all'incirca 10 anni dopo, una grande ristampa di lavori legati a Maurizio Bianchi, addirittura cose mai editate che in Giappone uscirono, adesso e quotatissime e battute a prezzi incredibili tra l'altro. E Bianchi, prima con Saverio Evangelista, altro nome tutelare dell'industria storico, e con Splendor Geometrico, appunto a rintracciare un visivo legato a mondi decisamente micro e quasi cellulari, non proprio legati proprio a una visione quasi quantica della faccenda sonora, che appunto diventa assolutamente impalpabile, come probabilmente è impalpabile anche in un disco che appunto segna non la definitiva, ma un momento insomma, come dicevo prima, importante di cesura rispetto alla produzione di Maurizio Bianchi, ma anche di grande cambio esistenziale. Tornerà dopo una decina d'anni con Colori, con un disco che sì, va quasi a trovare quell'ambiente eterea che è sempre stata in nuce dentro i suoi lavori, perlomeno come MB, come Maurizio Bianchi, che però appunto trova anche una distensione, quasi un non diciamo relax, perché sennò insomma come dire, non andiamo a rispecchiare quello che poi è anche un bel disco come Colori, che comunque è un disco pacato, ecco, rispetto invece alle inquietudini che sono lancinanti dentro Armageddon, e seppur appunto tentate di essere girate, di essere prodotte e di essere quindi incanalate dentro un film che non fu mai poi girato da Maurizio Bianchi, un tentativo filmografico, forse per un immaginario che appunto si andava ad annullare proprio in quel 1984, quando appunto decise di abbandonare la musica, per poi fortunatamente anche tornare. Tra l'altro nel 2009 un altro annuncio, appunto tramite i vari canali legati a Maurizio Bianchi, che negli anni sono diventati anche tanti, visto i cultori, insomma, delle sue esplorazioni musicali, non soltanto musicali, anche un po' psichiche, e quindi un altro abbandono, anche se poi una serie di ristampe, di collaborazioni ancora, insomma, lo fanno vivere anche in una maniera piuttosto importante in termini di produzione. Ricordiamo ad esempio una cosa uscita anche ultimamente dall'Important Record, quindi scusate insomma il gioco di parole, ma forse l'etichetta principe più importante, così facciamo anche un giochino che piacerà sicuramente ai buoni americani dell'Important, se capiscono insomma vagamente l'italiano, ma appunto Important è importante, direi che c'è una certa assonanza, se non proprio similitudine, e quindi hanno editato un lavoro dei primi mesi del 1980 e una elaborazione di registrazioni mai uscite e proprio rielaborate poco tempo fa da Maurizio Bianchi, quindi una vitalità che anche qua sembra mai finire, anche qua una germinazione infinita, forse neanche voluta da Bianchi, che comunque tra volontarietà e involontarietà continua in maniera, appunto, scusate di nuovo il gioco di parole, importante, a solcare vinili che tornano insomma finalmente anche così sui bancali, e anche appunto registrazioni così quasi dimenticate, e umori che continuano quel grande immaginario annerito, grigio, quella grande aria grigia appunto di Maurizio Bianchi, prima ascoltato con Saverio Evangelista con Micromal Sonorities, e ora appunto con il suo Armageddon, che, come ripeto, insomma, disco definitivo, anche se poi non concludente, ma che aveva quell'impatto anche proprio per la ricerca appunto di questo visivo, quindi di una completezza dell'opera che evidentemente non poteva essere tale, e tale infatti fu, tant'è che il film non fu girato, e tant'è che non fu un addio definitivo quello di Maurizio Bianchi, ma dopo qualche anno appunto tornò. E vi abbandono in questa maniera, in questo Armageddon appunto di Bianchi, tra visioni che vengono sonorizzate, e sentirete proprio anche quasi quel carattere di prima parlavo di come alcune formazioni, alcune progettualità industriali riuscissero a trattare quasi lo sgranato televisivo analogico dell'epoca, il nostro pixelato insomma dei nostri giorni, e qua sembra quasi una distorsione sonora visiva che porta appunto a momenti assolutamente deformanti e ipnotici in maniera insomma massimale, questo Armageddon di Maurizio Bianchi. Vi rimando al prossimo 451 frammenti sonori per mercoledì prossimo, avete capito insomma che l'orario è nuovo, quello dalle 23 fino a l'una circa, poi capiremo anche bene come tarare la faccenda, o magari non capiremo, perché insomma andremo così navigando liberamente, come spesso si fa, e tra l'altro navigherà anche liberamente domani Eliseo Scarpa con 451 intersezioni. Io vi rimando quindi a domani dalle 24 con Eliseo, e tra una settimana appunto per il prossimo 451 in mia compagnia, in compagnia appunto di Max Macchia. Vi mancava? Sì, forse sì. Fate i bravi. Alla prossima, ciao.